Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera parliamo di trasporto merci su rotaia. Si tratta di uno dei punti deboli del sistema logistico italiano. Lo ripetiamo spesso, si sa, è una cosa risaputa. Sistema logistico che trasporta meno del 10% delle merci su ferro, contro più o meno un 17% della media europea e il solito 21% della Germania. Naturalmente, escluso il traffico marittimo e fluviale, ciò che non viaggia su rotaia viaggia su gomma, e così le autostrade, ma anche le città, sono piene di tir, di camion, con le ovvie conseguenze sia per il traffico che per l'inquinamento. Questa sera allora vogliamo domandarci che cosa si può fare per aumentare la quota di merci che viaggia su treno, non solo grandi opere, grandi snodi ferroviari, ma anche, come vedremo, piccoli interventi che possono dare un contributo. Ne parliamo con Orazio Iacono, che è direttore commerciale ed esercizio di RFI, Ferrovie Italiane, ed è anche ex direttore movimento della regione Lombardia. Poi vi spiego perché questo è importante. Buonasera Iacono. Buonasera a lei, buonasera a lei. Abbiamo poi Andrea Gilardoni, che è professore associato di economia e gestione d'impresa all'Università Bocconi, ed è anche lui, se ho capito bene, adesso ce lo conferma, un tecnico prestato alla politica, avendo assunto il ruolo di assessore alla mobilità e alle infrastrutture della regione Lombardia lo scorso ottobre, dopo insomma la caduta della giunta. Buonasera Gilardoni. Buonasera, confermo esattamente quello che ha detto. Lei non si candida, perché lei non si era candidato. Io non mi sono mai candidato e non ho intenzione né si candiderà. Di candidarmi. Terza ospite, Valeria Chinaglia, che è dirigente dell'unità organizzativa infrastrutture ferroviarie e sviluppo urbano e territoriale, sempre della regione Lombardia. È da una chiacchierata con lei che nasce la puntata di oggi. Buonasera Chinaglia. Buonasera. Perché, dicevo, perché la Lombardia è la regione che in questo momento ha il traffico merci più sviluppato, proprio in termini diciamo quantitativi, un po' anche per la posizione geografica centrale nella pianura padana, e però c'è anche un'esperienza recente, un tavolo merci ferroviarie, da cui sono emerse delle indicazioni interessanti di cui appunto vi vogliamo parlare questa sera. Gilardoni, io vorrei partire da lei chiedendole chi siede a questo tavolo e come è nato. Il tavolo nasce, devo dire, esattamente per le motivazioni che lei ha detto in introduzione, e cioè per ragionare su come sia possibile in una regione come la Lombardia, che ha un primato a livello nazionale nella logistica delle merci, migliorare la competitività dell'intero sistema. Allora, il tavolo della logistica, che è nato non tanto tempo fa, perché risale ai primi mesi del 2011 con il precedente assessore, riunisce intorno al tavolo molti operatori del sistema, sono una settantina tra società di trasporto, aziende logistiche, case di spedizione, imprese di autotrasportatori, ovviamente ferrovie, società di trasporti intermodali, i gestori delle reti, i gestori del terminal, eccetera. Questo tavolo nasce come momento di ascolto, di confronto tra operatori, al fine, e qua mi riconduco una volta alla sua introduzione, non già di immaginare solo grandi opere o grandi cose, ma di immaginare tutta quella serie di interventi, magari minori o apparentemente minori, che però possono avere un impatto piuttosto rilevante, soprattutto rilevante in tempi di scarsa capacità di investimento, no? come questo. Allora, Chinaglia, chiedo a lei rapidamente, mi può dire due o tre di queste indicazioni per interventi, chiamiamoli così, di basso cabotaggio, ma utili per fluidificare, per aumentare il traffico merci su ferrovia? Parlando con gli operatori, la richiesta più importante che è stata fatta è quella di piccoli interventi che potevano essere la lunghezza dei moduli di incrocio, dei binari necessari a far transitare più treni anche sulle linee a singolo binario, o l'incremento di peso assiale di alcuni binari, o l'eliminazione di segnalamenti. Ecco, proviamo a spiegarla questa dei segnali, qual è il problema? Ma il problema dei segnali è che semplicemente in alcuni punti la posizione di alcuni segnali può limitare l'accessibilità di questi binari per la sagoma del treno, cioè semplicemente spostando alcuni segnali è possibile far transitare carri che hanno dimensioni maggiori. Se il problema è una galleria, naturalmente non è facile da risolvere il problema, bisogna rifare una galleria, ma a volte su alcune linee certe categorie, diciamo, di treni merci non riescono a passare perché c'è un segnale che, diciamo, invade lo spazio. E queste sono cose veramente piccole che si possono risolvere probabilmente anche con investimenti molto bassi. Iacono, lei ha anche partecipato a questi tavoli. Che riflessioni può fare? Insomma, è un modello anche esportabile, forse? Guardi, noi abbiamo partecipato a questi lavori molto volentieri. Avevamo già fatto un lavoro analogo in Emilia-Romagna, è un'esperienza molto positiva. Su questo noi abbiamo dato evidenza nei nostri piani, anche quelle cose che stava appunto elencando l'ingegner Tinaglia. In particolare mi riferisco alla concreta possibilità di poter far circolare dei semi rimorchi sulla rotaia che richiedono una sagoma più ampia, e su questo noi abbiamo un piano concreto. Ad esempio, do una notizia che a partire dalla fine di quest'anno abbiamo la possibilità di poter far correre semi rimorchi da Trieste fino a Milano, anche qui intervenendo su piccole cose, che significa a volte spostare anche la pensilina di una stazione o spostare appunto un'apparecchiatura del nostro segnalamento ferroviario. E queste sono attività che sono in progress, quindi sono in pista, che noi contiamo di fare per la fine di quest'anno. Non c'è solo questo, ma c'è anche una serie di interventi che richiedono risorse finanziarie, perché quando si parlava prima di moduli, adeguamento moduli, cioè allungamento binari, spieghiamolo meglio, significa che sulle linee dove abbiamo promiscuità di traffico, merci e passeggeri, ad esempio nelle rotte di punta, abbiamo la necessità di cedere passo al treno regionale pendolare. Per fare questo abbiamo bisogno quindi di binari di precedenza ragionevolmente lunghi. D'accordo, cioè binari sui quali il treno può sostare in attesa che passi quello che ha la precedenza. Ci fermiamo qui, ma riprendiamo lunedì. Grazie Iacono, grazie Gilardoni, grazie Chinaglia. Grazie mille, buonasera. A lunedì.